Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesi. Gli acquisti di titoli da parte della BCE non sono niente di nuovo. Gli ultimi indicatori positivi mostrano che la frenata della crescita dell'Eurozona ha iniziato ad invertire la rotta. Così il presidente della BCE oggi, Mario Draghi, spiega che l'istituto riuscirà a stabilizzare l'inflazione ed evidenzia che le recenti misure lanciate da Francoforte con invia gli acquisti dei titoli di Stato possono proteggere i paesi dell'Eurozona dal contagio. Il negoziato tecnico che inizia oggi a Bruxelles cambia formato: dalla Troica, Unione Europea, BCE, Fondo Monetario Internazionale, si passa al cosiddetto Bruxelles Group, in cui alle tre istituzioni precedenti si affiancano anche i rappresentanti del Fondo Salva Stati e della Grecia. Lo dicono fonti dell'Unione Europea, secondo le quali il premier greco Tsipras ha accettato questo formato. Le decisioni dei governi tedesco, francese, italiano di contribuire con 8 miliardi di euro ciascuno, quello spagnolo con 1,5 miliardi, al Fondo Europeo per gli investimenti strategici, allo stesso tempo un successo e una sconfitta per la Commissione UE di Jean-Claude Juncker. Un successo certamente perché gli Stati membri, o almeno le quattro maggiori economie dell'Eurozona, dimostrano di credere in questo piano, e non era scontato. D'altra parte però i governi non ne accettano fino in fondo alla logica, lo spirito cosiddetto originario. I loro contributi infatti non vanno ad aumentare, come avrebbe voluto la Commissione, le garanzie del fondo, ovvero i 16 miliardi della Commissione e i 5 miliardi della BEI, la Banca Europea per gli investimenti, messe a disposizione per tutti i progetti che saranno sostenuti in qualunque paese. Il direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, si dice molto preoccupato sul fatto che l'Italia non ha ancora recepito la direttiva UE sulle risoluzioni bancarie, che entrerà in vigore il 1 gennaio del 2016. Rossi però ha ricordato come altri paesi lo hanno già fatto. Buone notizie per i consumatori e gli esercenti: da ottobre arriva il limite massimo alle tasse sui pagamenti con carte di credito e debito. Sentiamo il servizio. 6 miliardi l'anno per gli esercenti, 730 milioni per i consumatori sono i risparmi che dovrebbero derivare dal tetto unico sulle commissioni bancarie, la misura introdotta dal Parlamento europeo sui pagamenti con carte di credito e di debito, massimali che si applicheranno in tutta Europa sia agli acquisti domestici che a quelli all'estero. Per le carte di debito, e cioè i pagamenti con il bancomat, il tetto che i negozianti dovranno pagare alle banche è fissato allo 0,2% della transazione, per le carte di credito allo 0,3. In Italia invece attualmente variano dallo 0,5 allo 0,7 per il bancomat e addirittura dall'1 al 4% per la carta di credito. Sono circa 760 milioni le carte in circolazione nell'Unione Europea. I pagamenti elettronici sono cresciuti fino a toccare i 100 miliardi di euro, ma le aziende lamentano che le commissioni costano loro circa 10 miliardi l'anno. Con la nuova normativa che verrà approvata formalmente dal Consiglio prima di quest'estate, la Commissione Europea stima che vi sarà una riduzione annuale di queste tasse per 6 miliardi di euro, e ciò dovrebbe favorire la trasparenza nelle transazioni e aprire la strada a nuovi sistemi di pagamento più tecnologici. Troppo a lungo le commissioni interbancarie hanno aumentato i costi per commercianti e consumatori, ha detto il commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager, secondo la quale questa normativa costituirà anche una pietra importante per la costruzione del mercato unico digitale europeo. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per Europa 24. Su Radio 24 vi ha parlato oggi Daniele Biacchese. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.